Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un risultato clamoroso a Barcellona, due grosse sorprese ad alto livello, Liverpool-Lione 1-2 e Inter-Dinamo 2-2. Un'altra sorpresa cospicua a livello più basso che è Rangers-Unirea 1-4. Ora, la domanda è che cosa stia succedendo in Europa, e cioè è in atto un rimescolamento di valori, e se sì è merito delle piccole squadre o è demerito delle grandi? Domanda impegnativa, direi, per questo la rivolgo a un professore del nostro calcio come Ottavio Bianchi. Buondì Ottavio. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Come la vedresti? È ancora un avvio di stagione, quindi tutto va preso un po' con le molle, oppure c'è già un segnale di tendenza? No, all'inizio ci sono alcune squadre, tipo il Barcellona, tipo l'Inter, e il Liverpool è nettamente cominciato male. Sono tutte squadre, a parte l'Inter, che nel campionato italiano non ha lotta e penso che non avrà lotta ancora per qualche anno, ma non credo che sia un'inversione di tendenza, è un problema del momento delle grosse squadre. Non dimentichiamo che questo girone è un po' lo specchietto per le allodole, perché alla fine passeranno sempre le più grosse. L'hanno fatto apposta per questo. Certo che se i protagonisti di solito le prendono un pochino sotto gamba, perché hanno degli impegni importanti nei campionati e dicono: già se non vinco oggi vinco dopodomani. Sì. E c'è una tendenza in questo senso. Se poi analizziamo squadra per squadra, vediamo che il Barcellona ha perso la freschezza dall'anno scorso, perché per giocare come gioca il Barcellona, che ha giocato un calcio spettacolare, devono muoversi tutti senza palla. Adesso il problema è che quando non si muovono senza palla diventa una abbastanza prevedibile. Anche perché hanno cambiato i giocatori, i punti di riferimento in avanti. Adesso basta buttarla lì e se fai gol bene, però non c'è più il movimento come c'era prima. Qualche calo di condizione, specialmente sul giocatore che secondo me è il miglior giocatore del mondo del momento, Messi, che ha avuto dei problemi andando avanti e indietro per l'Argentina. Certo. Questo ha un significato. Per quanto riguarda il Liverpool fuori Gerrard e Torres, che sono i due autentici giocatori che gli danno un po' di qualità, gli altri sono giocatori che stanno nella media. Le altre squadre sono il Lione, e da anni che è la squadra migliore di Francia, e anche se ha cambiato, perché giustamente ha cambiato i senatori che ormai avevano vinto tanto, ha messo gente fresca, però avendo le possibilità economiche è la squadra che detta legge in Francia. Sì. L'Inter, questo me lo devi dire tu, sei più tu, perché certo è che giocare in quella maniera è molto facile, nel senso che se tu giochi con una punta, se hai una squadra decisamente forte, un organico fortissimo come quello dell'Inter, e hai un punto di riferimento solo davanti con delle persone che arrivano dietro con qualità tecniche e fisiche, è chiaro che fuori casa, ecco, vai a nozze. Ecco. Il problema della grande squadra è giocare come ha giocato il Barcellona l'anno scorso. Vuol dire giocare con due punte o tre punte più il centrocampista d'appoggio che va a chiudere l'azione, tipo Iniesta. Certo. Allora, perso la palla in zona 1 d'attacco, sei in inferiorità numerica, ma non di uno, di quattro persone. Allora, lì vedi la mano dell'organizzazione di squadra. Stiamo attenti a non dire dell'allenatore, che come sappiamo è leggermente permaloso. No, però Ottavio, io ho detto all'inizio. Non ho detto niente. No, non ho neanche di questi timori. Io. No, ma lo so bene. Lo so bene, sono io che ho fatto una simultanea maliziosa, come avrebbe detto il grande Arbore. Senti, a corredo e a suffragio, direi, di quello che stai dicendo, aggiungo che ieri sera il fattore campo è saltato in maniera completa. Hanno giocato 8 partite, c'è stata una vittoria in casa dell'Olympiacos, 2 pareggi e 5 vittorie esterne. E tu stesso hai già introdotto il concetto che la stessa Inter ha tutta l'aria di essere quest'anno una squadra più da trasferta che da casa. Forse non solo quest'anno, ma quest'anno in particolare, mi pare. da sempre nelle coppe, in campionato è una cosa, nelle coppe da sempre il turno lo passi fuori casa. Certo. Perché fuori casa? Perché hai degli spazi, le squadre di casa necessariamente ti danno campo, devono spingere in più e specialmente spingono con dei giocatori, quelli meno tecnici, che se non coprono la loro zona diventano dei buchi incredibili, anche perché arrivato ad un certo livello ormai le squadre hanno tutte un buon valore, non è che nelle squadre, nei campionati italiani o nei campionati ci sono 4 o 5 squadre del tuo livello e poi le altre non sono così, allora ti possono permettere anche l'errore. Ma a livello internazionale, se tu fai un errore a parità di condizione, a parità di valore di squadra, se fai un errore e lasci un'autostrada, ti puniscono. Ecco, allora... da sempre questo è stato, che quando si fanno le coppe si sa che fuori casa perlomeno la squadra di casa ti dà 2 o 3 palle gol e tu ne devi mettere dentro il più possibile. Certo. È indubbio che c'è una linea di tendenza che comincia a far preoccupare, non da oggi, ma insomma, che a maggior ragione preoccupa la tifoseria interista. Perché? Ma perché siamo all'ottava partita in Europa senza vittoria consecutiva. 8 cominciano a essere tante e a denotare una linea di tendenza. Questo secondo me, ma non secondo me, perché basta leggere i numeri, cioè ieri sera il Camp Nou era pieno come al solito, erano pieni praticamente tutti gli stadi. A San Siro c'erano sì e no 25.000 persone, che vuol dire un terzo scarso di San Siro. Ora, potrebbe darsi che cominciasse un certo disamore del pubblico anche nei confronti dell'Inter europea, no? Cioè come se ci credessero un po' meno, e magari questa è una delle ragioni che si riverbera poi su quella insicurezza della squadra, o tutto questo sono chiacchiere secondo te? No, quello che sai, il pubblico interista è un pubblico appassionato, di solito ci va anche quando non vincevano, adesso sai sono abituati a vincere un po' spesso. E la partita di ieri sera non era una partita di cartello, non dimentichiamo che c'è anche la crisi economica, perché sì, andare allo stadio non è facile, tra i controlli, tra questo, i parcheggi, certo. Non è se poi giochi ogni 3 giorni, 4 giorni, la concorrenza televisiva è notevole, perché tu con un abbonamento schiacci un pulsante e vedi in contemporanea tutte le partite di questo mondo. Non dimentichiamo anche l'aspetto tecnico, perché se tu non dai, al di là del risultato, che il risultato non è un dentro fuori, se ci fosse stata una partita dentro fuori io sono convinto che a San Siro ci sarebbe stata molta gente, però un torneo a gironi dà la possibilità di recuperare. Non dimentichiamo poi che in questo momento Non l'Inter non dà uno spettacolo di gioco, se gioca il Barcellona uno va a vedere il Barcellona, insomma, se giocava il Manchester di un anno fa andavi a vederlo volentieri. Certo è che tu mi puoi dire, ma il Liverpool sta giocando male eppure ci vanno, ma c'è una cultura diversa, una forma di attaccamento diverso, quindi tutti gli stadi sono di proprietà, sono più piccoli, offrono un sacco di situazioni favorevoli, ristoranti, parcheggi agevoli, tutto puoi portare alla famiglia. In Italia questo comincia a pesare. Sì. Questo è molto giusto. Ci sono molti messaggi affettuosi per Ottavio Bianchi, arrivano da Como, arrivano da Napoli, arrivano da molte parti, da Bergamo ovviamente, che poi è la tua città, anche se non di origine, perché un bresciano trapiantato a Bergamo è un caso abbastanza raro, e questa è una caratteristica di Ottavio Bianchi. E poi ci sono alcune domande, io te ne giro due, a una potrei rispondere anch'io, ma vediamo dopo se indovino. La prima è questa, Andrea scrive: Mourinho ha sempre detto che sin dal giorno in cui è arrivato che non avrebbe mai né cercato scuse né additato a responsabili di qualsiasi cosa i giocatori. Ieri sera ha detto: abbiamo pagato qualche errore individuale di Lucio e di Samuel, questo che finora ci hanno dato tanto, ha aggiunto Mourinho. Questo ascoltatore domanda: a lei Bianchi è mai successo di fare i nomi di 2 giocatori che avevano sbagliato partita? Ho detto tutta la squadra sì, nomino, anche perché non avevo la possibilità, nello spogliatoio. Nello spogliatoio salta fuori tante cose. Certo, ma non in pubblico questa domanda. Sì, no, ma penso che poi dopo abbia detto così, però ha anche detto sono due giocatori che ci hanno anche dato tanto. Sì. E questo è un po' anche i momenti del calcio. Il calcio non ti permette la critica, mentre invece nel basket, per esempio, tu sai, Gigi, che lo segui, che l'allenatore va a fine della partita e dice questo ha sbagliato tanto percentuale di tiro, la difesa non ha pressato, questo, e non succede niente. Da noi invece la nostra cultura è che l'allenatore non può dire certe cose, ma mi sembra del tutto, in questo caso mi sembra del tutto veniale. E quello che ha detto Mourinho, ha detto sì, che poi è anche evidente, hanno sbagliato due giocatori che fino al giorno prima sono stati due colonne. Certo. Capita, vuol dire che io la vedo in questa ottica. La seconda è di Stefano da Napoli, che dice: salve, può chiedere a Ottavio Bianchi cosa ne penserebbe se De Laurentiis gli proponesse di fare il DG del Napoli? Allora provo a dare una risposta io credo che Ottavio Bianchi potrebbe rispondere: ho già dato. Però invece la risposta aspetta a te, ovviamente. No, mi conosci talmente bene, io sai, nel senso che sono, purtroppo abbiamo un abito diverso, nel senso ormai siamo piuttosto datati ed è giusto che, che arrivino persone nuove, con idee nuove, con tutto, sai, dirigenti dove ero abituato io, o giornalisti come eri abituato tu, lavoravamo spesso a contatto di gomiti, con il rispetto reciproco, adesso è un po' più difficile. Certo che sì. Vabbè, ti ammollo ancora una domanda di quelle che arrivano. Questo è un bergamasco, si chiama Omar, quindi insomma un concittadino, una risposta ci può stare. Ti chiede se quando l'hai allenato Ciro Ferrara, secondo te poteva già avere allora qualche stimmata, non so, da allenatore futuro, e come lo vedi oggi? Allora, questo rispondo volentieri, perché se c'era una persona che non doveva e non voleva fare l'allenatore, ero io. Un giorno ero a Ferrara, ero diventato dirigente, prima ero dirigente, giocatore, poi mi hanno fatto provare a fare l'allenatore. E proprio era una cosa, se mi avessero detto tu fai l'allenatore, tutti i miei vecchi allenatori avrebbero detto no, questo con quell'altro che hanno lo può fare. Poi se l'ho fatto io lo può fare tutto il mondo, allenatore, infatti si vede l'esempio. Ci sono tanti esempi in giro di gente che fa l'allenatore che indubbiamente convalida la mia tesi. Di Ciro no, perché io l'ho conosciuto molto giovane, certo. L'ho conosciuto giovane, come ho conosciuto giovane Donatoni, come ho conosciuto un sacco di allenatori che vanno per la maggiore adesso. Sono stati i miei giocatori proprio piccoli, però Ciro era un ragazzo intelligente come lo era Donadoni. Poi dopo la vita, il campo, le esperienze ti danno delle possibilità di esprimerti in altri settori. Il problema di questi giovani è che secondo me gli avrebbe fatto bene un po' di gavetta. Il problema di non fare la gavetta, sei sempre un po' nell'allarme, sei un po'. Sì, un po' di insicurezza iniziale, magari. Certo. No? Poi dopo, appena trovi l'abbrivio, prendi più sicurezza. Ma io sono per giocatori, per gente specialmente intelligente e sensibile, preferisco che facciano la gavetta. Per quelli che capiscono poco, possono fare subito. Senti, un ascoltatore si congratula con te per aver centrato il problema chiave dei 25.000 soltanto, con tutte le virgolette del caso di ieri sera, e questo ascoltatore ricorda che mentre ieri sera un biglietto per Inter Dinamo Kiev costava 27 euro, ne costava 35 da parte del Milan, per esempio, l'abbonamento a tutte e tre le partite del girone, e quindi è vero che c'è una bellissima differenza. Prima che qualche fiorentino ci insulti perché non abbiamo ancora pronunciato la parola Fiorentina, quello che ti domando è se a parer tuo questa, insomma, questa piccola svolta che la squadra di Prandelli ha avuto negli ultimi tempi, compresa la vittoria di ieri sera e compreso, secondo me, lo si è visto ieri, insomma, il ritorno forse di Mutu ad alto livello, se questo la qualifica a dare almeno un po' di fastidio all'Inter da una parte e poi a fare un certo cammino europeo dall'altra. La conduzione della Fiorentina è legata a un uomo, un allenatore che secondo me, se non è il migliore, è tra i migliori, perché ha equilibrio, ha misura. È bresciano, l'ho detto. Ha fatto tanta gavetta, è stato un buon giocatore, come diceva, come avresti dipinto. Una domanda che vorrei fare io a te, che sentiamo. Mi sorge spontanea. Sentiamo. Cosa avrebbe detto il signor Rocco di un personaggio come Mourinho? Adesso però questa brutta domanda che ti ho fatto. Sì, devo prendere un po' di tempo. Devi prendere un po' di tempo. Sì. E per il resto, adesso ho perso il filo del discorso. Sì. Eravamo sulla Fiorentina. Ah, la Fiorentina. No, devo dire che Prandelli, secondo me, è un allenatore che fa bene con la squadra, che è una buona squadra, però penso che in Italia lo strapotere attuale dell'Inter, a meno che non facciano dell'autolesionismo più elevato, sì, sì. Per alcuni anni ce n'è ancora, non c'è me, insomma, certo. Io auguro che, però vedi che ci deve mettere più tempo, e poi quando si metti tempo perdi punti che non recuperi più, certo. E infatti vedi che la Fiorentina ieri sera, poi la Fiorentina ha vinto, però ha vinto contro il Debrecen, che io conosco molto bene perché andavo nel periodo passato, andavo in Ungheria a fare conferenze proprio a Debrecen, e è una piccola cosa, nel senso che in difesa hai visto quello che è, però la Fiorentina ha un'ottima organizzazione di squadra. Tu vedi la mano, vedi la Fiorentina e dici questa c'è la mano di un allenatore. È una squadra ben guidata. Ottavio, hanno un difetto le tue conversazioni, che finiscono presto. No, piacere mio. Sul serio. È l'unico che riesce a farmi parlare. Appunto. E allora vedremo di infittirle, così la prossima volta ti rispondo anche di cosa avrebbe detto Rocco su Mourinho. Va bene, non prepararti troppo. No, improvviso. Mi raccomando, non scrivere un altro libro. No, questo no. Quello è stato molto, molto bello. Così da appelle avrebbe sparato un De Profession Belzovine. Ecco, così a appelle. Poi, non so, può anche darsi che avrebbe detto altro. Grazie Ottavio. Ciao, grazie a te. Chiudiamo questo collegamento. Poi vi leggerò un po' un altro po' decine, centinaia di messaggi che sono arrivati a commento degli interventi di Ottavio. Credete davvero, domanda Roberto da Arezzo, che la Dinamo in casa giochi più aperta di ieri sera, che già mi sembrava spalancata? È carina come osservazione ed è anche molto pertinente, perché in effetti non sembrava davvero una squadra bloccata la Dinamo ieri sera, e in particolare sul gol del primo pareggio dell'Inter, quello di Stankovic, commettere una nefandezza tattica facendosi infilare in contropiede in vantaggio. Non tanto fuori casa quanto in vantaggio per l'appunto nel punteggio, dopo aver sfiorato anche più volte il raddoppio. Un ascoltatore in attesa da molto tempo, gli chiedo scusa, Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Grazie, dopo la sofferenza della mia squadra di ieri sera era giusto anche aspettare. Dunque, io quando vedevo il grande Milan a giocare, se non corri non puoi vincere, e purtroppo l'Inter gli manca ancora questa mentalità del non correre. Purtroppo lì ci sono troppi campioni che credono di essere superiori alle mezze squadrette, come si diceva una volta. Infatti una mezza squadretta che sembrava è andata a Barcellona a vincere. Sembrava chissà cosa avesse fatto l'Inter là. Però la mia è pura utopia, intendiamoci Gigi. Ma queste persone qua che prendono tutti questi bei soldini, ogni tanto sul giornale c'è scritto Maicon è stato derubato dell'Inter, perché? Ma perché adesso Moratti non chiama il loro procuratore e fa adesso togliamo 1 milione di euro perché non sta rendendo come volevo io in quella coppa che io voglio? Grazie Gigi. Grazie a lei. Il Livorno è ufficiale, ha ingaggiato Cosmi, lo ha reso noto un comunicato pubblicato da pochi minuti sul sito del Livorno. Cosmi verrà presentato, anzi è in presentazione attualmente al Centro Coni Tirrenia di Pisa. Sapete che è stato uno soltanto dei due cambi di panchina di ieri, perché l'altra che è saltata è quella di Papadopoulo a Bologna, e quindi Cosmi da una parte, Colomba dall'altra. Il totale generale di questa stagione è già di 5 panchine cambiate in 8 giornate. Credo sia un record dopo 8 giornate, insomma, ma poi che lo sia o che non lo sia, mi pare faccia poca differenza. Un commento che arriva da San Siro ieri sera, che è quello di Shevchenko. Succede che il girone è equilibrato, infatti erano tutti campioni in su e nazionale. L'Inter ha giocato una buona partita, noi siamo andati avanti due volte e non siamo riusciti a mantenere il risultato. Poi abbiamo avuto occasione per ancora andare avanti, però questo è il calcio. Però è stata una bella partita giocata, sono contento perché penso che comunque per noi, per tanti ragazzi giovani che sono, hanno fatto un'ottima prestazione. Già, e mi pare che in quelle occasioni, di quelle occasioni che la Dinamo ha avuto per chiudere la partita o comunque per tornare ancora in vantaggio, mi pare che Shevchenko qualcosa ne dovrebbe sapere. Giorgio da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Guardi, io ho l'impressione, no, che questi risultati un po' strani, no, questa diciamo rivolta delle cosiddette piccole, non sia poi del tutto casuale, oppure solo dovuto al fatto che le grandi sono in un momento iniziale, quindi stentano. A mio parere, un pochino, perlomeno in parte, dovuto, è figlia, diciamo, questa situazione della rivoluzione che ha voluto Platini per quanto riguarda la formula dei preliminari di Champions League, che ha consentito alle squadre campioni, proprio alla prima classificata, di alcuni paesi di calcio cosiddetto minore o che non eravamo abituati a vedere, di entrare a far parte dei gironi. E queste sono squadre che, anche se tecnicamente hanno qualcosa in meno, nella testa sono giocatori che si sentono campioni, che quindi hanno l'abitudine, perlomeno nel loro paese, a vincere. E allora, secondo me, impostano le partite in modo diverso. E parlo del Rubin Kazan, lo stesso Dave Rechen ieri sera è stato molto combattivo, l'Unirea che vince 4-1, secondo me in parte può anche essere dovuto a questo, alla mentalità vincente di queste squadre nel loro paese. Potrebbe essere, però insomma tu hai un bel avere la tua brava mentalità vincente, la tua attitudine a vincere, poi quando ti trovi davanti a una corazzata perdi o comunque sei abituato a un certo livello di ostacolo, quando l'ostacolo diventa troppo alto ti impegni, rifiuti l'ostacolo, e invece no, quindi in parte sarà merito loro, non lo discuto, ma insomma in un'altra parte sarà anche credo demerito altrui. Ottavio Bianchi, che conosce e ama il gioco del Barcellona, l'ha spiegato molto bene prima. Non c'è dubbio che vedere il Barcellona di oggi e vedere quello di qualche mese fa, ma soprattutto dell'avvio di stagione scorsa, di un anno fa, sia uno spettacolo diverso, e questo qualcosa vorrà pur dire. Un commento, le impressioni del protagonista della vittoria della Fiorentina di ieri sera in Ungheria, e cioè dell'uomo che la Fiorentina ha ritrovato, forse ha ritrovato del tutto, Mutu. Sorrido perché abbiamo vinto su un campo difficile, perché sono contento della mia prestazione, perché so di aver ritrovato la mia condizione fisica, e questo mi fa piacere. Speriamo di migliorare tutti, speriamo una grande squadra come vuole la Fiorentina esserlo. L'importante è avere tanti giocatori pronti e dare il loro contributo quando qualcuno manca. È quello che penso noi abbiamo dimostrato in queste settimane. Ha chiamato Mario dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto è stato un piacere sentire il mister Bianchi. Ha detto delle cose incredibili, cioè, ha fatto una disamina della situazione anche dell'Inter, incredibile. Io sono un tifoso interista. Ha detto delle cose sagge. Sì, sagge, che sinceramente sai, un tifoso non è mai... Fa fatica a sentirle oggi le cose sagge, se esatto, il calcio lo si ascolta alla TV, no? Mi rendo conto che a volte non sono così saggio e questo è stato il bacchetto da solo. Ma la cosa che non ho sentito e che secondo me invece si vede in maniera incredibile è che al centro della difesa dell'Inter quest'anno gioca un certo Lucio, che ogni tanto fa qualche svarione incredibile. Questo porta svantaggi come ieri, ma mi ricordo anche l'inizio di Milan-Inter, poi vinto da noi alla grande, però mi ricordo alcuni svarioni incredibili di Lucio, ma proprio nella tempistica. Non capisco perché, perché il nostro mister, che mi sembra alquanto presuntuoso, non pensi di riconvertire Cordoba, per dire, che sicuramente nella velocità potrebbe... Cioè, dico che Lucio in questo momento al centro della difesa, soprattutto in alcune partite, è un problema. Poi non so come la penserei. Assolutamente la stessa maniera fin dalla prima giornata, se è per quello. E in maniera eccessiva, intendiamoci, perché poi Lucio, ma insomma, non c'è verso di fare. Al di là di ieri sera, quella di ieri sera è una partita disgraziata e basterebbe quell'autorete a confermarla. Però insomma, non so perché, ma non... A me i difensori che partono palla a piede per andare all'attacco e trascinati dagli slanci del pubblico, sinceramente è un genere che non amo. Mi fanno lo stesso effetto della demagogia in altri campi, non so come rendere il concetto. Proiettiamoci un po' su stasera e quindi sulle vigilie di Juventus e Milan. Buffon, per esempio. Penso che l'errore più grosso che potremmo commettere sia proprio quello di sottovalutarli. Ecco. Dovremmo, secondo me, invece fare ancora maggiore attenzione, far tesoro di questo calendario per far sì che una partita simile possa diventare un trampolino di lancio per noi, ecco. Però per fare questo bisogna solo avere un grandissimo rispetto del Maccabi e bisogna prepararla soprattutto mentalmente e soprattutto dal punto di vista delle motivazioni nel miglior modo possibile. Juventus Maccabi nel cartellone di stasera, poi ovviamente il clou è Real Madrid-Milan, adesso ci arriviamo. Arriviamo anche al fatto che Rafa Benitez, cioè l'allenatore del Liverpool, secondo un'agenzia uscita da non molto, sta rischiando un esonero che avrebbe del clamoroso, perché il Liverpool è alla quarta sconfitta consecutiva, domenica è atteso dal Manchester United, quindi non proprio da una passeggiata, ma soprattutto erano 22 anni che i Reds non perdevano 4 partite a fila, cioè 2 in campionato con Chelsea e Sunderland e 2 in Europa con la Fiorentina e ieri sera contro il Lione. La risalita è resa ancora più complicata dal fatto che già Benitez ha dovuto e sta dovendo fare a meno di Fernando Torres, lo ha ricordato prima Ottavio Bianchi, per ragioni muscolari, e lo stesso problema muscolare ieri sera ha colpito anche l'altro crack della squadra, e cioè Gerard. Aldo ha chiamato da Siena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, volevo farle una domanda, mi auguro che lei mi sappia rispondere perché è un grande intenditore di calcio. Io ieri sera ho guardato Dinamo Kiev e Inter, a parte un po' sprovveduti in difesa quelli della Dinamo, secondo me hanno dato una lezione di calcio all'Inter, perché in 5-6 sulla linea della palla aggredivano, correvano, raddoppiavano. Cioè, io non ho mai visto, se non ai tempi del Milan di Sacchi, una squadra che va a giocare in uno stadio grande, blasonata, con altre, e l'aggredisce e va per vincere. Mi chiedo perché le squadre italiane, anche le grandi squadre italiane, non giocano come la Dinamo di Kiev. Non credo che i giocatori dell'allenatore che ha la Dinamo di Kiev siano tanto meglio dei giocatori e degli allenatori del signor Mourinho, che è qui in Italia, ecco. Ma insomma, io adesso, senza esagerare, perché insomma, non è che la Dinamo Kiev abbia giocato questa partita stratosferica, ha certamente giocato un calcio interessante, ma Kiev è stato a metà degli anni Ottanta un laboratorio di calcio in Russia, perché allora parlavamo di Unione Sovietica, tant'è vero che la Dinamo Kiev del colonnello Lobanovsky fece furore per anni, e quella squadra trapiantata in nazionale fece un figurone ai mondiali del Messico dell'86, fu eliminata in maniera profondamente ingiusta, credo dal Belgio, credo di ricordare, e avrebbe certamente meritato molto di più. Adesso, dopo anni di impasse, in effetti sembra che la Dinamo Kiev stia tornando a riscoprire quel calcio di allora, insomma, quella cifra tecnica e tattica soprattutto che aveva stupito l'Europa. Sapete che questo è il momento del ripasso della rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 ottobre 1984. A 35 anni, Niki Lauda vince con la McLaren il terzo titolo mondiale della sua carriera, dopo quelli conquistati nel 75 e nel 77 con la Ferrari. Nel Gran Premio di Portogallo, ultima prova stagionale, il pilota austriaco si piazza al secondo posto, alle spalle del compagno di scuderia Alain Prost. E nella classifica generale finale, Lauda precede Prost soltanto di mezzo punto. Si tratta del distacco meno ampio nella storia del mondiale di Formula 1. Si diceva della vigilia di Real Milan, si sbilanci un po', mi scrive un tassista milanese, Sergio. Lei pensa che il Milan potrebbe fare bottino pieno o prenderle sontuosamente o si mettono d'accordo per il pari? Beh, insomma, l'ultima la scartiamo, no, caro Sergio? Scartata l'ultima, le altre due possono succedere, direi, indifferentemente. Nel senso che il Milan, io sono convinto tuttora che ha nel DNA e nell'orgoglio dei suoi vecchi campioni, ha la forza mentale per andare a Madrid contro una squadra che per il momento è ancora un assemblaggio magnifico, ma un assemblaggio di figurine più che una squadra, per andare a creargli dei problemi seri, così come ha delle vulnerabilità tali in questo momento l'Inter, il Milan, che può benissimo andare là invece a raccattarne alcuni. La vigilia di Kakà. Mi falta ganare muchas cosas con il Real Madrid. Todo quello che ganado hasta ahora, ganado con il Milan, con la selección brasileña, y ahora me gustaría mucho ganar muchas cosas con el Real Madrid, con colectivamente e individualmente. Es la primera vez que juego contra un ex equipo. Ho jugado en el San Paolo, nel Milan e ora qui in Madrid. Per me è una partita, un partito storico, ma tengo muchas ganas, perché sono un professional, quiero ganar perché necesitamos de esta victoria también. Beh, non credo che uno spagnolo così lineare, così anche diciamo un po' scolastico come parla, ma gradevole come quello parlato da Kakà, abbia bisogno di grandi traduzioni. È una lingua facile da capire, poi se anche scappa una parola, in realtà quello che conta è il senso di quello che ha detto Kakà e che certamente avete afferrato. Ma un po' esagerato, secondo Marca, cioè secondo il quotidiano sportivo spagnolo, ha un po' esagerato l'allenatore Pellegrini. Avrebbe chiesto ai suoi giocatori una goleada stasera con almeno 3 gol di scarto contro il Milan. Sono imprudenze che non si devono fare, secondo me, alla vigilia di una partita, o comunque uno ha tutto il diritto, anzi ha il dovere di coltivarle, ma è molto, ma molto meglio se se le tiene per sé, perché benissimo non fanno. Massimo si complimenta perché era in effetti il Belgio, conferma lui che eliminò quella grande nazionale russa, e un altro ascoltatore ricorda che quella stessa Dinamo Kiev trapiantata in nazionale si arrese agli europei 88 soltanto a quello straordinario gol di Van Basten, perché certamente di quell'Olanda collettivamente era più forte quella Russia. Poi quell'Olanda aveva 3 giocatori, uno in particolare, i 3 del Milan, uno in particolare che era Van Basten, che andavano oltre. Ha chiamato Mario da Pisa, buongiorno. Salve, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Visto che ce l'abbiamo, io volevo farle un paio di domande riguardo agli allenatori. Mi spiego brevemente. Secondo me Leonardo e Ferrara non sono all'altezza per le squadre che allenano. Io avrei visto bene, rispettivamente, per il Milan e per la Juventus, Ballardini e Gasperini. Perché Ballardini è più Sacchiano di Sacchi stesso. Gasperini è un uomo Juve, secondo me è un allenatore, uno dei migliori che c'è in Italia. Volevo sapere se è d'accordo. E poi un'altra cosa, sempre perché riguarda la nazionale, se vedrebbe bene per il dopo Lippi un allenatore tipo Del Neri, che ormai non ha più il profilo per fare il salto in una grande squadra, però secondo me per la nazionale potrebbe essere adatto. Questa è cosa che pensava Mario. Io penso che l'allenatore ideale per la nazionale, per me, sarebbe un allenatore federale, cioè se dipendesse da me io tornerei ad allevare dei giovani e a distinguere nettamente il percorso di carriera di un allenatore che allena le nazionali e che comincia dall'under 16, under 18, eccetera, eccetera, e poi attraverso l'under 21 arriva alla nazionale maggiore, togliendo la nazionale agli allenatori che arrivano dal mercato. Il periodo più felice della storia della nazionale iniziò nel 67 con l'arrivo di Valcareggi, con la promozione di Valcareggi, che veniva per l'appunto dalla scuola federale, a commissario tecnico, e continuò con quelli che allora erano, in quei tempi erano i suoi due primi assistenti, e quindi Berzot prima e Azeglio Vicini poi. Quanto al resto, per carità, Ballardini, benissimo Ballardini, benissimo Gasperini, benissimo anche altri. L'ha detto bene Ottavio Bianchi prima, si è pure sfumando molto il concetto. Che il peso, l'indispensabilità di un po' di gavetta a parer suo è un ingrediente molto importante per allenare, e soprattutto per allenare ad alto livello. Ha detto anche, se avete colto l'ironia di Bianchi, che per diventare bravi allenatori la gavetta è indispensabile, per fare i routinier non è poi così, non lo è altrettanto, perlomeno. Tocca a Roberto, chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno, senta, mi volevo permettere di dire una cosa intanto, forse Rocco mi perdona, che il signor Mourinho avrebbe fatto la figura del Mona, da queste parti si dice così. Premesso che Mourinho è tanto bravo e che fa tante cose che vediamo, che secondo me ha una squadra forte da tanti anni, e non so per quale motivo, perché francamente vedo un cambiamento veramente incredibile dalla domenica al mercoledì, e probabilmente è un fattore in testa. Volevo entrare in merito gentilmente in Coppa Campione per dire questo a tanti amici, e magari anche sento tanti ascoltatori che hanno tantissime cose da rilevare. Vi sarete accorti che Carlo Ancelotti è riuscito a nascondere per 3 anni le magagne e farci arrivare secondi con una squadra da Serie B, e che abbiamo vinto una Coppa dei Campioni soltanto grazie probabilmente a tutta una serie di fortune, perché ci sono state anche delle fortune, ma probabilmente anche tutta una serie di cose che Ancelotti è riuscito a trasmettere ai giocatori. Volevo sapere se lei era d'accordo sia su Rocco che su questo. Grazie. Caro Roberto, di quanto, cioè, i saggi già sapevano quando c'era, quando ancora c'era, quanto Ancelotti fosse prezioso. I meno saggi l'hanno scoperto adesso che non c'è più. Lei però, come spesso accade, è un po' esagerato, ha parlato in una squadra di Serie B, e questo mi pare che abbia un po' inficiato la qualità del suo intervento, che invece mi pareva alto da un punto di vista tecnico. Siamo a un minuto circa dalla conclusione. Allora, mi pare che una notizia potrebbe valer la pena, ed è questa: la giunta del CONI ha dato il via libera alla stretta già annunciata per evitare che per la corsa ai giochi del 2020 si sfornino candidature come pizze. È l'espressione che ha usato ieri il presidente del CONI Petrucci, a cui già ieri abbiamo dato rilevanza, che mi sembra particolarmente azzeccata. Petrucci lo ha ribadito al termine di questa riunione a Foro Italico, presentando il decalogo che detta le condizioni in base a cui una città può definirsi candidata, e sottolineando che la delibera della giunta CONI è stata unanime nel voler mettere nero su bianco questi criteri. Proprio per fare ulteriore chiarezza, Petrucci ha concluso: le due candidature ufficiali, quelle fatte per bene con i rispettivi sindaci Alemanno e Cacciari, sono al momento Roma e Venezia. Delle altre due, Bari e Palermo, prendiamo atto dai giornali. Grazie a Laura Vanossi in redazione, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Appuntamento a domani. A tempo di sport.